Cantieri di Carità e Giustizia. Sfogliamo altre pagine del progetto Cantieri di Carità e Giustizia col quaderno numero 2 distribuito poco prima di Pasqua in occasione della Via Crucis cittadina a Padova. Dopo aver descritto la mappa appunto di che cosa si fa in città a Padova, dopo aver parlato di chi si occupa dei poveri, di come agisce a contrasto della povertà e di quali risorse utilizza, abbiamo ricordato che non sono soprattutto risorse finanziarie ma sono soprattutto risorse umane. Parliamo oggi delle interconnessioni, cioè come si rapportano, come si relazionano fra loro le organizzazioni che sono state mappate in questo lavoro. Hanno delle collaborazioni o lavorano in modo isolato? Ebbene, quasi tutte queste organizzazioni, il 94%, ha relazioni con altre. Sono state conteggiate almeno 280 relazioni di interconnessione. È un dato però sottostimato perché in alcuni casi non è stato indicato un solo ente, ma un gruppo di enti, ad esempio parrocchie, ma ce ne sono tante a Padova, associazioni e quante sono, imprese ancora di più. Mediamente ogni organizzazione ha relazioni con altre quattro. Il 27% delle organizzazioni ha contatti solo con una, viceversa il 73% ha almeno due contatti. Il numero di collaborazioni attive è legato anche alla dimensione dell'organizzazione. In generale, più piccola è l'organizzazione, meno rapporti. Questo credo sia anche naturale. Ad esempio, le parrocchie hanno in media un numero minore di contatti. Le relazioni riguardano enti privati no profit per il 37%, enti religiosi per il 33%, enti pubblici per il 27%, enti privati profit per il 3%. I non profit in prevalenza sono associazioni, tra quelli più citati Banco Alimentare, Croce Rossa, Centro Aiuto della Vita. Tra gli enti religiosi un ruolo significativo è assunto dalla Caritas nei suoi diversi livelli, diocesana, vicariale e parrocchiale. Meno frequenti le collaborazioni con la San Vincenzo e con la comunità di Sant'Egidio. Negli enti pubblici un posto primario assunto dal Comune di Padova, in particolare dai servizi sociali, e relazioni sono instaurate anche con la provincia e l'azienda ULS, che era diversa, ce n'era più di una, adesso ce n'è una sola per la provincia di Padova, era diversa rispetto ai tempi in cui è stata fatta la mappatura. Per cosa si collabora? Perché ci sono queste relazioni? Prevalentemente per coordinarsi sulle persone che vengono seguite, 26%, per informazione e per consulenza, 15%, per fornire alimenti o altri beni, oppure per progettualità specifiche. Molte relazioni, ma poi anche con quale intensità? In prevalenza i contatti sono qualche volta al mese, poco più del 40% dei casi. Nel 26% delle situazioni il contatto è qualche volta alla settimana, addirittura tutti i giorni. In un terzo dei casi, 31%, ci si sente qualche volta all'anno, quindi con una frequenza in realtà molto, molto più ampia e più dilatata, evidentemente. Poi in realtà le richieste, vi ho detto, ci si coordina, ci si telefona, si parla, ci si relaziona per il coordinamento dei casi, per informazione, per la distribuzione degli alimenti o di altri beni. In realtà i motivi poi sono altri, magari con percentuali minori ma comunque significativi, per parlare di progetti ad esempio, per fare un coordinamento fra enti, quindi non solo sui casi di persone che vengono seguite, per parlare di lavoro piuttosto che di formazione ed educazione, per gli aiuti economici, per l'accoglienza, per la condivisione di eventi o di spazi. Insomma, è una rete, 280 relazioni, 75 associazioni mappate. Probabilmente la rete potrebbe essere anche più ampia, ma insomma proprio a questo servono i cantieri di carità e giustizia, a capire qual è la situazione e poi a fare meglio, perché se ci fosse effettivamente un coordinamento ancora maggiore di quello che c'è, se ci fosse maggiori relazioni, magari si scoprirebbero risorse che altrimenti rischiano di rimanere non utilizzate o poco utilizzate. Invece risorse ce ne sono tante, come abbiamo detto la settimana scorsa, ma anche all'interno delle stesse associazioni è importante sempre più condividere, perché l'obiettivo finale alla fine è cercare di contrastare appunto la povertà e le varie povertà presenti nel territorio cittadino. Cantieri di Carità e Giustizia.